difficile, e quindi torniamo un momentino sui termini di questo discorso, che riguardava il pensiero dal 3 al 7 bis, se vi ricordate. Ecco, abbiamo citato questi temi fondamentali. Il pensiero numero 3, il pensiero numero 3 era quello che diceva, forse era opportuno che vi guardaste, perché così mi seguite, diceva questo, cioè come esistono dei drammi, delle tragedie che hanno a che fare con l'esposizione delle passioni, così possono esistere delle tragedie che hanno a che fare con l'esposizione dell'intelligenza, nei suoi tracolli, nelle sue angosce, no? Evidentemente è molto facile per noi comprendere quello che significa una tragedia che metta in scena dei sentimenti, eh? È molto più difficile capire che cos'è una tragedia che metta in scena per contro le defaillance, le sconfitte, i trionfi dell'intelligenza. E tuttavia questi sono parte integrante del nostro pensiero, nel senso che il nostro pensiero non è, per così dire, rettilineo, se sono sconfitte, anzi direi sono le sconfitte sono di ordinaria amministrazione, senza trionfi anche qualche volta, insomma, no? E allora in questo bisogno di intelligenza di Verdi ci sarebbe questa prospettiva di costruire dei drammi sull'intelligenza, drammi dell'intelligenza. Dopo avevamo considerato un pensiero, quello numero 4, in cui diceva, no, sì, questo era il 3. Quello 4 esattamente, e qui poi non se n'è andato, in cui diceva quanto segue. Diceva, io voglio essere super razionale, per così dire, e quindi super artificiale, e in questo modo mascherò me stesso. Sì e no, perché in realtà quando io scelgo un certo modo di artificio, un certo tipo di artificio, poi scopro me stesso, scopro la mia esistenzialità. Ho avuto modo di dirvi più volte che l'esistenzialità è il punto fermo il punto fermo permanente, no? È proprio il punto al quale rapportarsi. Senza esistenzialità il pensiero è debole. Ricorderete quello che vi avevo detto nelle volte scorse, che l'esistenza è ciò che dà ragione al pensiero, no? Non è viceversa. È l'esistenza che dà ragione al pensiero. Ecco perché la famosa frase, che è una parodia di Cartesio in qualche misura, che cos'è la coscienza? La coscienza è io penso di pensare, ma la formulazione ha senso dire io penso di pensare, penso e mi sto rendendo conto che sto pensando, ma la formulazione ha la terza potenza, io penso di pensare è significante. Il secondo pensare viene a confondersi con il primo, ecco. Questo era quanto dovevamo dire sulla manifestazione di sé. Il quinto pensiero che avevamo considerato riguardava una cosa molto interessante, riguardava il fatto se uno deve pensare per il passato, cioè sul passato o per l'avvenire, ecco. E lui è abbastanza sicuro del fatto che bisogna lasciar perdere in qualche misura la storia. Scrivere sul passato non ha molto senso. Non ha molto senso raddoppiare, lui dice, quello che già è. Ha senso invece scrivere per progettare, per lanciarsi in avanti. È abbastanza difficile capire questo pensiero della sua intensità, della sua vera natura, però è molto importante che lo facciamo. Cioè, lo scrivere per il passato diventa un po' simile, se volete, alla scrittura antiquaria di cui parla Nietzsche, di cui ho parlato nel mio libro, tra altre cose. Diventa un qualcosa di viziato, di lezioso, di narcisistico, no? Da un certo momento in poi uno scrive memorie e quelli che non scrivono memorie, però pensano in modo memorialistico, cioè pensano in qualche modo celebrando il proprio pensiero e la propria vita. Questo è un pensiero critico. Se voi guardate dei grandi studiosi, che scrivono delle pagine quotidiane, non so, che ne mette uno, Galimberti, per esempio, Ebbene, qual è il limite della grande intelligenza che costoro naturalmente manifestano? Il limite è che parlano troppo di sé, sono rimasti incatenati a se stessi. Forse è fatale che questo avvenga per chiunque, intendiamoci bene, forse è fatale. Ma certamente, secondo me, magari lei se mi vede può chiudere un po' la porta, un pochino ma effettivamente scrivere per il futuro è qualcosa di più, ecco, grazie, è qualcosa di più ardito e di più produttivo. Certo che la domanda che si potrebbe fare a lei è questa: ma cosa vuol dire scrivere per il futuro? Cioè, io ho un nome, un cognome, una storia, e quindi non posso non fare a meno di scrivere tenendo conto del mio passato. Sì, dice lui, ma con una prospettiva verso il futuro. Non bisogna scriversi addosso. Questo è quanto lui dice. Ha ragione? Sì e no. Perché quello che manca completamente in Valerie è una sorta di preziosa, la chiamerei in questo modo, carità dell'intelligenza. E questa carità dell'intelligenza fa sì che noi dobbiamo andare incontro a noi stessi, non dobbiamo semplicemente metterci alla frusta e alla della disciplina. Ecco, su questo concetto torneremo fra pochissimi, insomma, no? Una carità dell'intelligenza ci aiuta a capire la densità della nostra vita, quindi è vero che bisogna credere per il futuro, ma come fare senza rinunciando alla memoria, rinunciando alla nostalgia, rinunciando, forse l'ispirazione più profonda nasce anche da queste cose. L'altro giorno sentivo di solito rievocazioni storiche fatte bene su Rai 3 negli anni 60, perché sono anni evidentemente della mia giovinezza, e a un certo momento c'è una canzone, e non va fatta bene, solite cose, insomma. Era una canzoncina, che era legata a un granello di sabbia. Forse qualcuno di voi avete chiuso il libro? Sì. Ce l'ha aperto? L'ha chiuso? Bene. Sentendo questa canzoncina, improvvisamente la forza della nouvelle musique di cui parla Proust, ho avuto un giusto, un sopralluogo. Cosa mi sono ricordato? Mi sono ricordato in ordine, se dovevo andare indietro, mi sono ricordato anzitutto l'odore del pesce al mare arrosto verso l'ora di pranzo, poi ragazze amiche di miei amici, poi come eravamo allora, i capelli, io avevo per esempio delle barbette che arrivavano fin qua, i pantaloni erano pantaloni lunghi, erano larghi a zampa delle palme, erano una rottezza assolutamente spaventosa. Quello che colpiva di più effettivamente è che i capelli erano lunghi quasi alle spalle e le barrette erano più qui, dovete immaginarmi in questo modo. Tutte queste cose sono tornate su. E mi hanno dato molta più commozione che se avessi sentito Bach. Questo non vuol dire evidentemente che io possa paragonare legata a un granello di sabbia a Bach. Si tratta di cose qualitativamente diverse, però l'emozione l'ho avuta e quell'emozione è inutile, secondo Valerie, volendo scrivere per l'avvenire, per il futuro, in questa robaccia bisogna farne a meno. Invece no, perché è vero che per scrivere bene bisogna leggere, diceva uno scrittore, una pagina di Platone prima, no? Ecco perché io guardo bene quando devo scrivere, per conto mio, di guardare una serie di laurea prima, avrei un senso di frustrazione immedicabile. Quindi prima leggo Gatta, poi mi metto a scrivere, o Selim, o una pagina di Platone, ma io direi leggo Gatta, insomma, infatti Gatta sono lì, non ho mai messo a scappare. È come l'imitazione di Cristo per i cattolici, cioè quello di quattro in un qualunque momento, non di quattro, in un qualunque momento leggo 5-10 linee di lettura parzializzate, mai grandi letture. Una lettura deve essere fatta di poche righe per assorbire quelle e possibilmente imparare la memoria. Ecco, questo è il modo di essere, non quando uno sento qualcuno che dice ho divorato e poi puntini in un certo libro, quello è un cretino. Chi divora un libro è un cretino. Oppure, il libro merita di essere divorato, no? Ecco, puoi dire ho divorato il conte di Montecristo perché è appunto un romanzo di, ma se tu dici ho divorato la ricerca di Proust, sempre, sempre, non va con tutti. Quindi è data un granello di sabbia, è molto importante, Gino Paoli è molto importante, Ornella Maloni, Mina, sto parlando di cantanti del mio tempo naturalmente, sono estremamente importanti. Perché? Perché ricordo la ragazza con cui stavi dicendo, non è questo, non è questo, anche, ma non è questo, è proprio un odore del tempo. E l'odore del tempo, ecco la vera obiezione contro Valerio, l'odore del tempo è indispensabile. Perché una scrittura solo muscolosa, faldica, che guarda all'avvenire, è una scrittura che mi sta seguendo? Io scrivo così. Lei scrive così, ma adesso così però sta seguendo comunque quello che sto dicendo. Ho un'ora di incubo. No, ma credo mi dicesse una cosa di questo genere. Sono qua, la sento ma non la seguo, ecco, questa è la cosa, sono in su, no? Sono apposta qui per non sentirla. E questo sarebbe stato anche interessante. No, una mostra da Daista. Ma è bello però come cosa, non sono qua proprio per non sentirla. Dunque, non c'è la ragazza dopo lì, ma ecco qua la ragazza dopo lì. Sai come si chiama? Se pare. L'ho già chiamata dopo lì. Un altro pensiero interessante riguarda il numero 6, riguarda le abitudini. Dice questo, noi spesso non riusciamo a credere perché ci sono delle frasi a cui ci siamo affezionati. Questo è verissimo. E allora partiamo sempre da quelle frasi. E non vogliamo farne a meno. Ma qui è l'errore. Qui è l'errore. Noi dobbiamo saper rinunciare a tutto. Vedete come la disciplina, la scuola della disciplina va avanti. Dobbiamo saper rinunciare a tutto. E questo è vero, sicuramente, che dobbiamo saper rinunciare. Ma è anche finto. Anche finto questo viaggio. È anche sbagliato. Perché, in fondo, se una cosa poi è profondamente dentro di noi, sarà un motivo per stare dentro di noi, capite? Ci sono come? Ci appartiene. Io per esempio ho dei frammenti in testa da tanti anni così, insomma potrei, questo ho scritto tanti anni, ma per esempio mi viene in mente adesso un versetto che ho inventato io, insomma, di nessun significato. Di nessun significato. E questo significato lo capirò quattro, boh, forse mai. Il verso è il seguente, come bimba perduta in giovinezza. Di chi sto parlando? Di quale bimba? No? Che senso ha? Io non so che senso ha. Un altro è, questo invece è un verso di un poeta celebre, spagnolo, e dice così, amore amato, io senza di te e tu senza di me. Chiusa, la poesia è brutta, poi. La poesia è brutta, non è immensa, beh, lui dico, non è né nulla, Vabbè, mi sta per venire. Come dice? Ma quando ne scriviamo in spagnolo, però. Che significano queste abitudini che abbiamo dentro di noi mentali? Noi non sappiamo quelle, però se ce le abbiamo c'è un motivo, c'è un aggancio, così come di certi colori che occupano il nostro immaginario. Vorrei sapere perché sono perseguitato dal colore arancione, al punto tale che quando lo vedo questo colore arancione mi dà un senso di angoscia, ho dei ricordi personali sull'arancione, un giorno di sole al tramonto, poi quando mi sono ritrovato con l'arancione, mi ricordo che insegnavo all'università di Chieti, un giorno d'estate con le candele, era terribilmente angoscioso. Sono misteri della nostra vita, sono abitudini ecco, che si possono commisurare a quelle pratiche che dominano e non riusciamo a eliminare. Ma perché eliminare? Allora avete capito qual è il punto? È vero che ci sono delle pratiche nella nostra scrittura che dovremmo eliminare perché non riusciamo a mettere insieme a nient'altro, ma è totalmente vero. Oppure è anche vero quest'altro fatto, che se qualcosa ci appartiene profondamente, può essere il colore arancione, può essere un verso detto Raffaele Alberti, era questo, Raffaele Alberti, amore amato, io senza di te, tu senza di me, poi finiva la poesia, io con te e tu con me, e tu con me. Allora io mi sono speso, ma quando io dico questo versetto, questi due versi, che non hanno nessuna particolare verità, a chi sto parlando? A chi mi sto riferendo? No? E il fatto che non stia riferendo a nessuno mi turba, forse a me stesso, forse sono io l'amore amato da me stesso, perché nessuno ama se stesso, ha un altro più tenacemente che se stesso, forse sono io. E per questo che mi torna in mente, ma di questi frammenti di noi stessi dobbiamo far tesoro, non scattarli. Andiamo, il pensiero 7 non offre una particolare osservazione da fare, invece passiamo all'uomo, l'8, che dice quanto segue. Il pensiero 8 inizia così: «Et l'art dit ce grand artiste, cette œuvre que j'ai faite». L'avete trovato? 170. Allora, ma poi scusa, potevo dirlo io perché mi diceva la stessa. Dunque, allora, è interessante questo, dice, lui sta parlando della jeune parte, cioè del suo lavoro, e dice, ahimè, disse questo grande artista, quest'opera che ho fatta, quest'opera ammirevole che eccita le lacrime intorno a me, di cui si parla, e che si porta alle stelle, e di cui si interrogano le bellezze, io sono il solo a non gioirne. Ne ho tracciato il piano, ne ho messo insieme i materiali, ho studiato e messo a segno tutte le sue parti, ma l'effetto istantaneo dell'insieme, lo shock, la nascita, l'emozione totale, la scoperta, tutto ciò mi è negato. Tutto ciò è per gli uomini che non conoscono quest'opera, che non hanno vissuto con essa, che non sanno le lentezze, la derastoria, gli sgusti, le casualità, ma che vedono soltanto la cosa come un magnifico disegno che ha realizzato un tratto. Io ho, attenzione a questa frase, io ho portato su pietra, su una montagna, una massa che poi ho fatto cadere in un solo blocco sui lettori. Ha portato tutti questi materiali dell'opera, no? Pietra su pietra, fino alla cima della montagna. E quando lì l'opera era completata, cioè è come se io avessi riunito tutti questi tasselli della mia opera, poi li ho buttati nell'opera dando un solo colpo al lettore. Ho messo 5 anni in questa accumulazione sulle altezze ed è che ricevo il colpo in qualche istante. Allora, perché, dice lui, non riesce a rallegrarsi di quest'opera che è solo lavoro? Perché ha visto quanta fatica gli è costato, come è stata fatta mettendo un tassello dopo l'altro, con che pena, con che fatica. Ecco, allora la considerazione che noi possiamo fare in questo passo è questa. Sì, una qualunque opera è fatta in pietre che si mettono insieme, una sull'altra, si portano su sulla cima della montagna per poi buttarla addosso al lettore. E, o se volete usare un'altra metafora, un'opera è fatta di infiniti tasselli, e poi alla fine appare il mosaico, ma ecco i punti. Perché un'opera sia valida, bisogna che i tasselli non si vedano, bisogna che le singole pietre che tu hai portato sulla cima della montagna non si vedano, bisogna che si veda soltanto il risultato. Un qualunque lavoro artistico non deve lasciar vedere i tasselli, cioè quello, i pezzettini che l'hanno progressivamente costruito. Come fa uno scrittore in questo tentativo, che è certamente un tentativo complicato, difficile, come fa? fa così. Quando scrive, deve diventare il lettore di se stesso, cioè deve leggersi, deve vedere che effetto fanno le sue parole. Tutto questo è molto difficile ed è molto importante, cioè bisognerebbe imparare a leggere quello che si sta facendo come se l'avesse fatto qualcun altro. Leggere ad alta voce da parte di uno scrittore serve molto, perché per esempio ti aiuta a capire il ritmo. Se diciamo Flaubert che se il ritmo c'è, tu lo senti soltanto se leggi ad alta voce. Anzi, lui diceva che si grida, bisogna urlare la frase. No? Ecco, tu prova a urlare l'inizio della voragine. Nous étions à l'école quand le proviseur entra. Se tu lo dici a una parola, nous étions à l'école quand le proviseur entra, non senti niente. No? Ma se tu lo gridi, senti il verso. Se tu lo gridi, senti il verso, o senti comunque il frammento narrativo, il frammento di prosa. Diventare lettori di se stessi è che, anche vuol dire significa questo, che effetto fanno le mie parole nel loro insieme? Che effetto fanno? Vediamo, ho parlato di Flaubert. Se voi girate, troviamo una piccola notazione, frammento 9, in cui parla «Mon inspiration, n'est pas verbale, relita». E dice una cosa interessante, la mia ispirazione non è verbale, non procede a parole, piuttosto per forme musicali. Questo vuol dire sostanzialmente questo, un'ispirazione letteraria che procede per forme musicali, che la scrittura è ritmo, è musica. Poi voglio aggiungere un'altra cosa. E cito questo esempio che può essere davvero illuminante. Flaubert, voi sapete, a proposito della Bovary di Anzi, citata, scrive una cosa straordinaria lentezza. La sua frase, è stato detto, era ingemmata, no? Perché metteva una pietra preziosa dopo l'altra. Tutto questo, dicono alcuni, non condivido la loro opinione, rendeva la sua frase troppo pesante, troppo ricca di bellezza. Era per la verità lui stesso che diceva quella bellissima osservazione, diceva, quando uno scrive non deve mettere delle belle perle, no? Ma deve fare la collana, eh? Poi lui le perle metteva, vediamoci bene, perché diciamo anche le cose come stanno, che se non hai delle belle perle, la collana non si fa. Però è altresì vero che, se andiamo a osservare, a giocare un po' su questo concetto, vediamo qualcosa di interessante, perché se hai solo delle belle perle, però magari non sai metterle insieme, un gioiello, è fatto di belle, mi trovo a parlare di queste cose con una particolare, sta per dire, competenza, in quanto che io ho dovuto fare un regalo in questi giorni. Dire con tutto e poco, guardate, è stata una specie di distanguamento delle mie vita, un anello con un diamante, insomma, una cosa, guardate, non ci voglio, ho firmato due a segno della fonte, poi ho firmato la segno del santo. Poi io sono uscito dal negozio, non ho voluto sapere niente. Diamante con torri brillanti, eccetera. E certo, le perle sono belle, i solidari che hanno dato, insomma, voglio tornare sull'argomento, mi è costato tantissimo, posso dire migliaia di euro, lasciamolo dire. Ma, sì, migliaia di euro. Però sono cose che mi mandano, quando ero a casa non mi rendevo conto del fatto che avevo speso una cifra così spaventosa. Sì, terribile. Ma le perle sono belle, però non bastavano le perle belle, perché io le ho viste quelle stesse perle, le ho viste fuori dall'anello, e poi è insieme che bello, capito? Quindi ha ragione Valeri quando dice, Valeri scusate, Flaubert quando parla della collana e delle perle. Va. Comunque, tornando al punto, Flaubert dice, Valeri dice che l'ispirazione musicale, mi segue? Musicale. Sapete cosa vuol dire? Vuol dire che uno deve avere un ritmo in mente. Lui scriveva in modo molto lento e quando verso la fine Maxime Ducamp, che era Bovary, gli disse a punto stai, e lui dice mi mancano solo 15 pagine. E allora Maxime Ducamp dice, allora ne parliamo per due anni. Mi rimangono 15 pagine. No, è troppo piccolo amico. Ma poi questo è finito. Cioè, invece un sacco di tempo fare quello che hai fatto e adesso dice che è pochissimo è finito. Dice sì, disse il problema, cosa bellissima. Perché adesso ho la canzone in testa. Come la canzone in testa? Ho la canzone in testa. Ho solo da metterci le parole. Ma in verità la canzone c'è. La canzone è fondamentale non solo in uno scrittore, ma è un musicista. Lei non l'avete seguito prima? No. Ma sta seguendo? No, solo per oggi. Solo per oggi. È fondamentale per un pittore. Per un pittore. Anche nella pittura che è una canzone. Ma torniamo alla scrittura. Che cos'è la canzone della scrittura? Che giustifica la canzone della scrittura, l'osservazione sulle tracce. Che cos'è la canzone della scrittura? È proprio una canzone, così, è un ritmo. Flaubert scrive con una proposizione, con un'altra proposizione, e poi c'è una E, una conclusiva, che chiude il tutto, e poi riprende dall'inizio. Pesante, noioso, dipende da come lo si legge. Certo. È una prosa, diciamo così, lenta. Se voi leggete Céline, non è una prosa lenta. Ma Céline è una canzone diversa da quella di Gatti. Manzoni è un'altra canzone. Capire la canzone dello scrittore è un dovere fondamentale del critico. Ma avere una canzone quando si scrive è requisito essenziale per poter scrivere qualcosa di nuovo. Quando io mi vado a scrivere la sera, io scrivo solo la sera con poche, quando mi vado a scrivere non posso mica cominciare a scrivere così, apro il computer e dico no, tanto so benissimo quello che devo dire, ma normalmente io mi devo leggere le ultime due o tre pagine finché questa mia canzone ce l'ho in mente, e quando ce l'ho in mente, quando la posso proprio cantellare, a quel punto comincia. E allora so come mettere le pause. So dove vanno i due punti, come usare i due punti, capite? Ecco, la scrittura è una canzone. Valeri dice questo. Vorrei aggiungere un'altra cosa molto importante, all'atto di questo discorso, che la scrittura è fatta di due cose. Una è quella che abbiamo appena detto, di una canzone. E la seconda cosa, la scrittura è fatta di atmosfera. Questa è una parola magica, non posso sviluppare il discorso adesso, ma la grande scrittura è quella che sa evocare, così come decide di farlo, in modo saltellante, zoppicante, come cavolo volete, in modo informe, ma deve evocare un odore, un colore. La scrittura deve farti sentire in montagna, al mare, deve farti sentire da qualche parte. L'atmosfera è questo. L'atmosfera è, se io devo dire in questo momento che cosa ricordo di un libro sonno, che è l'Invitation Sentimentale, avendolo fatto molte volte a lezione nel corso della mia vita, ricordo molto, ma tutto sommato non è mica vero che ricordo molto. E direi meglio, mi esprimo con più correttezza. No, mi ricordo molto, ma vorrei dirvi una cosa, non mi interessa ricordare. E cosa mi interessa fare? Mi interessa ricordare quell'odore, quel clima, di un grande l'atmosfera per il clima di è l'atmosfera. In certe musiche, vale, perché io ho esortato fortemente a sentire il preludio, come vi dicevo, di Tristano di Cotta, ecco, si sente un'atmosfera. Aggiungiamo un'altra cosa su questa parola, quindi avete capito dalla canzone, mi piace questa parola che va a conoscere questo canto, sono piccole cose, non è grave, una cosa che si dà in insoletta, quello che dico, oltre che la canzone, l'atmosfera, e questo volevo dire, l'atmosfera non è solo dell'architettura, di una musica, di un'opera d'arte, l'atmosfera è anche con una persona. Ci sono delle persone con cui tu vivi l'atmosfera. Capito bene? Per esempio, io le do un'atmosfera, non dica di no che le do uno schiaffo. Ci sono persone che non ti danno un'atmosfera. No? Per esempio, il portiere di casa mia, tipo orrendo, altissimo, alti 2 metri, ronzo, con i piedi validi, completamente così, capendo in questo modo, è uno che non mi dà un'atmosfera. Bastardo, fortuna. Questo penso, semmai, no? Ma ci sono persone che tu in una commessa in un negozio, una... Avete capito cosa sto dicendo? No, una qualunque persona mi dà un'atmosfera, ma non è che sia bella, la persona bella non è quella dell'atmosfera, non bisogna credere a queste cose. Ma l'atmosfera è importante quanto la canzone, ricordate questi due termini, sono stato chiaro? Andiamo al pensiero numero 10, che trovate 2 pagine dopo, cioè la pagina 176. Dice così, il pensiero numero 10, la letteratura non mi interessa che se tende e concorre all'accrescimento dell'esprit. A me gli occhi giovani, esprit vuol dire spirito naturalmente, ma vuol dire, e questo è il termine di senso in cui la legge usa sempre, vuol dire mente, esprit è la mente. Quindi la letteratura non mi interessa che se essa tende e concorre all'accrescimento della mente. Mi annoia nel caso contrario. Questa è una bella osservazione, no? Dobbiamo prenderla per oro colato, ma voi sapete che io non prendo nulla per oro colato, nemmeno quello che dice il cardinale Bagnasco lui dico. Nulla per oro colato. Ah, è quello, meno male. Eh sì, ma un bel libro giallo, che non accresce la mia mente, allora devo lasciarlo cadere? Beh, certo, io parlo più da Madame Bovary che dal libro giallo, su questo non c'è dubbio. Ma allora il libro giallo che posso fare? Niente, da leggere solo con uno d'accesso. Ci sono i libri d'accesso, i giornalisti, no? Ma se mi piace, questo è il concetto, ma perché devo rifiutarlo? Ma voi non sentite come proprio tutta una cultura, un'educazione, ma sì che tutti reprimono su tutto? Su assolutamente tutto, interviene su tutto. Apro e chiudo, sono profondamente sdegnato e colpito. Apro e chiudo, ma intanto apro, sdegnato e colpito dell'atteggiamento della Chiesa. Sono sdegnato e colpito. Una chiesa a cui uno chiederebbe nelle disgrazie della vita umana conforto e che così atrocemente interviene nei problemi dei singoli. Ma quello che ti piace, ho chiuso, ma quello che ti piace, no? Quello che ti piace deve essere censurato. Il libro giallo che ti piace, che non ti accresce un cazzo la mente, ma ti piace. Nel mio libro di un mattino, ho parlato di un libro, chi l'ha letto il libro di mattina di voi? Ho parlato di un libro alla mia, di Ulrich, di Cornel Ulrich, che non è che cresce la mente, lo devo già, però perché mi è rimasto così impresso, no? Cioè, ma chi ha stabilito in fondo questa gerarchia per cui devo mangiare, per esempio, semplicemente oltre che champagne, ma una carbonara non posso mangiare. Ma chi ha stabilito questa gerarchia per cui il piacere del cappuccino mi deve essere precluso? È assurdo questo. E allora bisogna richiamare un'importante considerazione che è stata fatta da Roland Barthes su questo tema. Lui divide i testi, Roland Barthes, in due tipi. I testi che danno, questo viene plaisir du texte, che danno plaisir, e quelli che danno jouissance. Quelli che danno jouissance sono i testi difficili, che cercano il lettore, che richiedono la sua collaborazione, no? Indichiamone uno. L'Ulisse di Joyce. Credo sia discutibile che uno possa leggere come la sera prima di addormentarsi per cattivarsi il sonno, possa leggere l'Ulisse di Joyce. Non c'è più. L'Ulisse di Joyce va a studiare. Poi hai dei piaceri straordinari. Sono altri testi che non obbligano il lettore ad andargli incontro, ma sono loro ad andare incontro al lettore. Se tu leggi David Copperfield di Dickens, no? Vedi che è di una facilità, di una affabilità, di un'affettuosità tale per cui ti viene incontro. Il libro giallo di cui sopra ti viene incontro, no? Ma certamente la recherche ti viene a fare poco incontro, perché è un libro difficile. Ecco, non è che puoi leggere la recherche, lo dico a Cesso, ci vuole, a Cesso può fare di tutto. Io ho fatto tutte le mie tesi di laurea, le relazioni, è una specie di principio per me. Questo, qualunque relazione di tesi di laurea è stata fatta al gabinetto. Ma perché? Per un disprezzo? No, è una specie di sistemazione mentale, è una specie di sistemazione mentale, no? E diamoci piacere. Ci sono delle letture difficili, ma anche letture facili. Quali sono le letture che devono infastidire, devono essere rifiutate? Non quelle che ti vengono incontro, ma quelle che sono sciocche, stupide. I Baricco, i Dan Brown, no? Ma non! E questo è il punto. Non letture che invece abbiano la loro facilità nel venirti incontro. Ci sono dei libri che ti vengono incontro facilmente. Ditemi uno che ti viene incontro facilmente. Me lo dice lei, un libro che viene incontro facilmente. Chi è che viene in mente un libro che gli viene incontro? Cosa? Il mondo di Dio, però questo non l'avete in poco. Dice... Se tu leggi la storia di Jekyll e Hyde di Stevenson, no, quella che viene incontro è una storia di ritratto di Dorian Gray. Il ritratto di Dorian Gray, non c'è nessuna particolare difficoltà. Ma questi valgono e ti danno quello che Barthes chiama plaisir, piacere, laddove invece i testi difficili sono quelli di jouissance. Allora alla frase di Valéry che dice: io leggo soltanto cose che accrescono la mia mente, si può rispondere: sì, bravo, hai ragione. Però lasciaci anche leggere delle cose che vengono incontro a noi e ci rallegrano e ci fanno star bene. E ci fanno star bene, perché anche di questo è fatta la vita interiore. Chi vuole dare? Non bisogna niente, devo cercare una cosa.